Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Seconda puntata. Come vi stavo dicendo, io frequentavo Leon Felipe e Pedro Garfias in modo leale e regolare, senza soffocarli sottoponendogli le mie poesie né raccontandogli le mie pene, tentando invece di rendermi utile, ma facevo anche altre cose. Avevo la mia vita privata. Oltre a cercare il calore di quei grandi della letteratura spagnola, avevo un'altra vita. Avevo altri bisogni. Facevo dei lavori. Cercavo di fare dei lavori. Mi muovevo e mi disperavo. Perché vivere a Città del Messico è facile, come tutti sanno, o credono, o immaginano. Ma è facile solo se hai un po' di soldi, o una borsa di studio, o una famiglia, o almeno un rachitico impieguccio occasionale, e io non avevo nulla. Il lungo viaggio per arrivare nella regione più trasparente mi aveva svuotata di tante cose, fra cui l'energia necessaria per affrontare certi mestieri. Così quello che facevo era girare per l'università, più precisamente per la facoltà di lettere e filosofia, svolgendo, potremmo dire, attività di volontariato. Un giorno aiutavo a battere a macchina i corsi del professor García Liscano, un altro giorno traducevo testi dal francese nel dipartimento di francese, dove erano in pochissimi a padroneggiare davvero la lingua di Molière. E con questo non intendo dire che il mio francese sia ottimo, ma rispetto a quello che adoperavano loro appariva eccellente. E un altro giorno mi attaccavo a un gruppo che faceva teatro e passavo 8 ore, non esagero, guardando le prove che si ripetevano all'infinito, andando a prendere panini, manovrando in maniera sperimentale i riflettori, recitando le tirate di tutti gli attori con una voce quasi impercettibile che sentivo solo io e che rendeva felice solo me. A volte, non molte, riuscivo a trovare un lavoro remunerato. Un professore mi pagava di tasca sua per fargli, diciamo, da assistente. Oppure i direttori del dipartimento mi assumevano o mi facevano assumere dalla facoltà per 15 giorni, per un mese, a volte per un mese e mezzo, con incarichi fumosi e ambigui, per lo più inesistenti. Oppure le segretarie, tutte ragazze simpaticissime, tutte amiche mie che mi raccontavano le loro pene d'amore e le loro speranze, sistemavano le cose in modo che i direttori potessero darmi dei lavoretti con cui guadagnare un po' di pesos. Questo durante il giorno. La notte conducevo una vita abbastanza bohemien, insieme ai poeti del Messico. Fatto altamente gratificante e persino conveniente, perché all'epoca ero abbastanza al verde e non riuscivo nemmeno a pagarmi una pensione. Ma di norma un po' di soldi li avevo, non voglio esagerare. Avevo i soldi per vivere e i poeti del Messico mi prestavano libri di letteratura messicana. Per prima cosa le loro raccolte di versi. I poeti sono fatti così. Poi i libri indispensabili e i classici. E in questo modo le mie spese si riducevano al minimo. A volte potevo passare un'intera settimana senza spendere un soldo. Ero felice. I poeti messicani erano generosi e io ero felice. A quei tempi cominciavo a conoscerli tutti e loro cominciavano a conoscere me. Eravamo inseparabili. Di giorno vivevo in facoltà, come una formichina, o più esattamente, come una cicala. da una parte all'altro, da un ufficio all'altro, sempre aggiornata su tutti i pettegolezzi, su tutte le infedeltà e i divorzi, sempre aggiornata su tutte le tragedie. Come quella del professor Miguel López Azcárate, che era stato lasciato dalla moglie e Miguelito López non riusciva a superare il dolore. Io sapevo tutto, me lo raccontavano le segretarie. Una volta mi fermai in un corridoio della facoltà e mi unii a un gruppo che discuteva non so quali aspetti della poesia di Ovidio. Può darsi che ci fosse il poeta Bonifaz Nuño. Può darsi che ci fosse anche Monterroso e due o tre giovani poeti. E di sicuro c'era il professor López Azcárate, che non aprì bocca fino alla fine. Trattandosi di poeti latini, l'unica autorità riconosciuta era quella di Bonifaz Nuño. E di cosa parlavamo, santo cielo? Di cosa parlavamo? Non lo ricordo con esattezza. Ricordo soltanto che il tema era Ovidio e che Bonifaz Nuño pontificava. Probabilmente stava stroncando un traduttore novellino delle Metamorfosi. E Monterroso sorrideva e annuiva in silenzio. E i giovani poeti, ma forse erano solo studenti, poveretti, idem come sopra, e anche io. Io allungavo il collo e li guardavo fisso e di tanto in tanto lanciavo un'esclamazione da sopra le spalle degli studenti, che era come aggiungere un po' di silenzio al silenzio. E allora, in qualche istante di quel momento che è esistito, che non posso aver sognato, il professor López Azcárate aprì la bocca. Aprì la bocca come se gli mancasse l'aria, come se quel corridoio della facoltà fosse entrato di colpo in una dimensione sconosciuta e disse qualcosa a proposito dell'arte di amare di Ovidio. Qualcosa che colse di sorpresa Bonifaz Nuño e che parve interessare oltre misura Monterroso e che i giovani poeti o studenti non capirono e nemmeno io. E poi arrossì, come se soffocare fosse francamente insopportabile. E qualche lacrima, non molte, 4 oppure 6, gli scivolarono sulle guance fino a restare impigliate nei baffi. 2 baffi neri che iniziavano a imbiancare sulle punte e nel mezzo, dandogli un'aria che mi era sempre parsa stranissima, come da zebra o qualcosa del genere. 2 baffi neri, in ogni caso, che non avrebbero dovuto essere lì, che reclamavano a gran voce un rasoio o un paio di forbici e che se guardavi López Azcárate in faccia troppo a lungo ti facevano capire senza il minimo dubbio che erano un'anomalia e che con quell'anomalia in faccia, con quella voluta anomalia in faccia, le cose dovevano per forza finir male. Una settimana dopo, López Azcárate si impiccò a un albero e la notizia corse per la facoltà come un animale terrorizzato e fulmineo. Una notizia che quando mi arrivò alle orecchie mi lasciò tutta rattrappita e coi brividi e al tempo stesso meravigliata, perché la notizia era senz'altro brutta, pessima, ma al tempo stesso era fantastica, come se la realtà ti dicesse all'orecchio: sono ancora capace di grandi cose, sono ancora capace di sorprenderti, stupida, te e tutti gli altri, sono ancora capace di muovere il cielo e la terra per amore. La notte però mi espandevo, tornavo a crescere, mi trasformavo in pipistrello, mi lasciavo alle spalle la facoltà e vagavo per Città del Messico come un fantasma. Mi piacerebbe dire come una fata, ma sarebbe offendere la verità. E bevevo e discutevo e frequentavo i circoli letterari, li ho conosciuti tutti, e davo consigli ai giovani poeti, che già allora venivano da me, anche se non tanti come in seguito. E io avevo una parola per tutti. Ma che dico, una parola? Avevo 100, 1000 parole. Mi sembravano tutti nipoti di López Velarde, pronipoti di Salvador Díaz Mirón, quei piccoli macho afflitti delle notti di Città del Messico, quei piccoli macho che arrivavano con i loro fogli piegati in quattro e i loro libri loguri e i loro quaderni sporchi e si sedevano nei caffè che non chiudono mai o nei bar più deprimenti del mondo, dove io ero l'unica donna, io e a volte il fantasma di Lilian Serpas, ma di Lilian parlerò più avanti. E mi davano da leggere le loro poesie, i loro versi, le loro ansimanti traduzioni. E io prendevo quei fogli e li leggevo in silenzio, voltando le spalle al tavolo dove tutti brindavano e cercavano con ansia di essere brillanti o ironici o cinici. Poveri angeli. E mi immergevo fino al midollo in quelle parole. Mi piacerebbe dire flusso verbale, ma sarebbe offendere la verità. Lì non c'era flusso verbale, ma balbettii. Restavo per un istante da sola con quelle parole tarpate dallo splendore e dalla tristezza della gioventù. Restavo per un istante da sola con quei pezzi di specchio rotto e mi guardavo, o per meglio dire, mi cercavo in quel mercurio da 4 soldi e mi trovavo. Ero là, io, Auxilio La Couture, o frammenti di Auxilio La Couture, gli occhi azzurri, i capelli biondi un po' ingrigiti con un taglio alla Principe Valiant, la faccia lunga e magra, le rughe sulla fronte, e riconoscermi mi dava i brividi, mi sprofondava in un mare di dubbi, mi faceva diffidare del futuro, dei giorni che si avvicinavano a velocità di crociera, anche se d'altro canto mi confermava che vivevo con il mio tempo, con il tempo che avevo scelto e con il tempo che mi circondava, tremante, mutevole, pletorico, felice. E così arrivai al 1968. O il 1968 arrivò a me. Io ora potrei dire che me lo sentivo. Potrei dire che ebbi un atroce presentimento e che non mi colse di sorpresa. Lo indovinai, lo intuii, lo sospettai, lo fiutai fin dal primo minuto di gennaio. Lo presagii e lo subodorai fin da quando si ruppe la prima e l'ultima pentolaccia di quell'innocente gennaio in festa. E come se non bastasse, potrei dire che ne sentii l'odore nei parchi e dentro ai bar nel febbraio o nel marzo del 68. Avvertii la sua quiete soprannaturale nelle librerie e davanti alle bancarelle che vendevano spuntini mentre mangiavo un taco di carne in piedi in calle San Ildefonso contemplando la chiesa di Santa Caterina da Siena e il crepuscolo messicano che vorticava come in delirio, prima che il 68 diventasse davvero il 68. Quando ci penso mi viene da ridere, mi viene voglia di piangere. Sto già piangendo? È che io ho visto tutto e al tempo stesso non ho visto nulla. Si capisce cosa intendo dire? Io sono la madre di tutti i poeti e non permisi, o il destino non permise, che l'incubo mi abbattesse. Le lacrime ora mi scorrono sulle guance devastate. Io ero in facoltà quel 18 settembre, quando l'esercito violò l'autonomia universitaria ed entrò nel campus ad arrestare e ad ammazzare tutti. No, no, lì non ci furono molti morti. Fu a Tlatelolco. Che quel nome resti impresso per sempre nella nostra memoria. Ma io ero in facoltà quando l'esercito e i reparti antisommossa entrarono e portarono via tutta la gente a forza. Una cosa incredibile. Io ero alla toilette, nei bagni di non so quale piano della facoltà, il quarto mi pare, ma non sono sicura. Ed ero seduta sul water, con la gonna tirata su, come dice la poesia o la canzone, a leggere i versi delicatissimi di Pedro Garfias, che era già morto da un anno. Don Pedro, così malinconico, così triste per la Spagna e per il mondo in generale. Chi l'avrebbe immaginato che mi sarei trovata a leggere alla toilette proprio nel momento in cui quelle teste di cazzo dei reparti antisommossa entravano nell'università? Secondo me, concedetemi questo inciso, la vita è piena di cose enigmatiche, piccoli avvenimenti che aspettano solo un contatto epidermico, il nostro sguardo, per scatenare una serie di conseguenze che poi, viste in prospettiva, non possono che ispirarci stupore o spavento. In effetti, grazie a Pedro Garfias, grazie alle poesie di Pedro Garfias e al mio inveterato vizio di leggere in bagno, io fui l'ultima ad accorgersi che erano arrivati i reparti antisommossa, che l'esercito aveva violato l'autonomia universitaria e che mentre le mie pupille seguivano i versi di quello spagnolo morto in esilio, i soldati e i reparti antisommossa arrestavano e perquisivano e picchiavano chiunque si trovassero davanti senza riguardi per il sesso, l'età, lo stato civile o la posizione acquisita o regalata nell'intricato mondo delle gerarchie universitarie. Diciamo che sentii un rumore nell'anima, e diciamo che poi il rumore crebbe, e alla fine prestai attenzione a quel che succedeva. Sentii che qualcuno tirava lo sciacquone di un water vicino, una porta sbatté, passi nel corridoio e il clamore che saliva dai giardini, da quel prato così curato che circonda la facoltà come un mare verde intorno a un'isola sempre pronta alle confidenze e all'amore. E allora la bolla della poesia di Pedro Garfias fece pof. E io chiusi il libro. Mi alzai, tirai la catena, aprii la porta, feci un commento a voce alta, dissi: «Ehi, che sta succedendo là fuori?» Ma nessuno rispose. Tutte le presenze della toilette erano sparite. Dissi: «Ehi, c'è nessuno?» Sapendo già in anticipo che nessuno mi avrebbe risposto. Non so se conoscete quella sensazione, una sensazione da film dell'orrore, però non di quelli dove le donne sono stupide, di quelli dove le donne sono intelligenti e coraggiose, o dove c'è almeno una donna intelligente e coraggiosa che all'improvviso si ritrova sola, che all'improvviso entra in un edificio deserto o in una casa abbandonata e chiede, perché lei non sa che il posto in cui si è cacciata è abbandonato, se c'è qualcuno. Alza la voce e chiede, anche se in realtà nel tono con cui fa la domanda è già implicita la risposta, ma lei chiede lo stesso. Perché? Perché? Perché sostanzialmente è una donna educata. E noi donne educate non possiamo fare a meno di esserlo in ogni circostanza in cui la vita ci metta. Così lei resta immobile, o magari fa qualche passo, e chiede, ma nessuno chiaramente le risponde. È così che mi sentii, come quella donna. Ma non so se me ne resi conto subito o se l'ho capito adesso. E feci anche io qualche passo, come se fossi stata su un'enorme distesa di ghiaccio. E poi mi lavai le mani, mi guardai allo specchio. Vidi una figura alta e magra, con qualche rughetta, già troppe sul viso. La versione femminile di Don Chisciotte, come mi aveva detto una volta Pedro Garfias. E poi uscii nel corridoio. E là, invece, mi accorsi subito che stava succedendo qualcosa. Il corridoio era vuoto, sprofondato nelle sue sbiadite tinte crema. E le urla che salivano dalle scale erano di quelle che stordiscono e fanno storia. Cosa feci allora? Quello che avrebbe fatto chiunque. Mi affacciai a una finestra e guardai giù e vidi i soldati. E poi mi affacciai a un'altra finestra e vidi le auto blindo e poi a un'altra, quella che è in fondo al corridoio, attraversa il corridoio con salti da oltretomba. E vidi i cellulari su cui i reparti antisommosse e qualche poliziotto in borghese stavano caricando gli studenti e i professori arrestati. Come nella scena di un film sulla Seconda Guerra Mondiale, mischiato con uno di Maria Félix e Pedro Armendáriz sulla Rivoluzione Messicana. Un film che si riduceva a uno sfondo scuro con degli omini fosforescenti. Come pare che vedano certi pazzi o le persone che hanno improvvisamente un attacco di panico. E poi vidi un gruppo di segretarie, fra le quali mi sembrò di riconoscere qualche amica. In realtà mi sembrò di riconoscerle tutte, che uscivano in fila indiana sistemandosi i vestiti con le borsette in mano o alla spalla. E poi vidi un gruppo di professori che usciva anche quello ordinatamente o almeno quanto lo consentivano le circostanze. Vidi gente con dei libri in mano, vidi gente con delle cartelline e pagine battute a macchina che volavano per terra e loro si chinavano a raccoglierle e vidi gente che veniva trascinata fuori e gente che usciva dalla facoltà coprendosi il naso con un fazzoletto bianco annerito in fretta dal sangue. E allora mi dissi, rimani qui, Auxilio. Non lasciare che ti arrestino, bambina mia. Rimani qui, Auxilio. Non entrare volontariamente in quel film. Se ti vogliono sbattere dentro, bambina mia, che si diano la pena di trovarti. E allora torna nella toilette. E pensa un po' che strano. Non solo tornai nella toilette, ma tornai sul water, proprio lo stesso di prima. Mi misi di nuovo a sedere sulla tazza, voglio dire, di nuovo con la gonna tirata su e le mutande abbassate, anche se non avevo il minimo stimolo fisiologico. Dicono che è proprio in casi del genere che si scioglie l'intestino, ma non fu certo il mio caso. E con il libro di Pedro Garfias aperto sulle ginocchia, e pur non avendo voglia di leggere, mi misi a leggere. All'inizio lentamente, parola per parola e verso per verso, ma nel giro di poco accelerai fino a una velocità folle. I versi passavano così rapidi che riuscivo a stento a discernere qualcosa. Le parole si attaccavano una all'altra. Non so, una lettura in caduta libera a cui, d'altra parte, la poesia di Pedrito Garfias riusciva appena a resistere. Ci sono poeti e poesie che resistono a qualsiasi lettura, altri, la maggior parte, no. Ed ero lì, tutta appresa, quando all'improvviso sentii un rumore nel corridoio. Un rumore di scarponi chiodati. «Ehi», mi dissi, «è una bella coincidenza, non ti pare? Rumore di scarponi chiodati». «Ehi», mi dissi, «ora ci manca solo il freddo e che mi cada un basco militare in testa». E poi sentii una voce che diceva «tutto a posto, signor sergente!» o qualcosa del genere. E 5 secondi dopo, qualcuno Forse lo stesso stronzo che aveva parlato aprì la porta dei bagni ed entrò.